Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo argomento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, argomento purtroppo amaro, è quello delle pensioni basse, sotto i 1000 euro al mese. I dati sono del bilancio sociale dell'INPS 2012, quindi parliamo dell'anno scorso, ormai, visto che siamo agli sgoccioli anche col 2013. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Mico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, dati che abbiamo già sentito ma che vale la pena riprendere, approfondire: su quasi 7.200.000 pensionati che non arrivano a 1.000 euro al mese, poco meno di un terzo, quindi 2.200.000, non arriva nemmeno a 500 euro, quindi parliamo della pensione minima, ma di questi tempi insomma anche 1.000 euro scarsi cominciano a essere pochi. Certo Domenico, parliamo di dati e di importi che sono veramente significativi, perché certamente nel 2014 oggi arrivare a sopravvivere con poco meno di 1000 euro al mese veramente oggi non è facile, soprattutto perché sappiamo benissimo che noi in Italia oggi riusciamo a sostenerci perché abbiamo un tessuto sociale che fondamentalmente si basa quell'aiuto che le famiglie ricevono dai genitori. Ci sono dei dati che abbiamo annunciato anche tempo fa in altre occasioni, dove sostanzialmente addirittura il 37% delle famiglie dichiaravano di arrivare a fine mese perché ci sono i genitori che danno una mano a contribuire quello che è un po' le necessità che queste famiglie hanno. Quindi ci rendiamo conto che parliamo di pensionati, parliamo di 1000 euro al mese, ma dobbiamo tenere conto appunto che valore sociale che anche questi pensionati hanno per contribuire a questo paese ancora a sopravvivere. Complessivamente poi sono sempre dati dell'INPS, il reddito disponibile delle famiglie è calato di circa il 2% e il potere d'acquisto invece tra il 2008, esplosione della crisi, e il 2012, dati a cui si riferisce l'INPS, è calato quasi del 10%. Dall'altra parte poi ci sono i pensionati che invece non hanno problemi, cioè sopra i 3.000 euro al mese ci sono 650.000 persone, pensioni che poi sappiamo sono state congelate praticamente, quindi non subiranno l'adeguamento previsto per l'inflazione. Sono due mondi che però si stanno allontanando sempre di più. Sono due mondi che si stanno allontanando sempre di più, ma è anche vero che c'è una discussione aperta su questi dati, perché sappiamo che il governo almeno sembrava che si stesse orientando verso un contributo per le famose pensioni d'oro. E certamente due dati che si stanno allontanando, perché oggi sappiamo che sostanzialmente se c'è un ceto che sta praticamente sparendo e subendo pesantemente questa crisi è praticamente il ceto medio. Ceto medio che praticamente è assorbito da quello che è il ceto povero, perché ormai il sistema in Italia sta selezionando quelli che sono un po' i più ricchi, perché anche chi prima aveva difficoltà a fare impresa, a lavorare, sostanzialmente oggi questa crisi ha chiuso. Chi è riuscito a farsi largo e a rimanere a galla, oggi magari riesce anche a lavorare meglio e a meno concorrenza rispetto a prima. Però il scotto di tutto questo è praticamente il ceto medio, che sostanzialmente oggi è quasi tutto sparito ed è quello che sostanzialmente è anche più esposto a ogni forma di tassazione, perché non ha diritto praticamente a nessuna esenzione. E oggi bisogna dire che purtroppo parlare di ceto medio significa mettere insieme due persone che lavorano, non è che significa parlare di chissà cosa, e parlare in quest'ottica qua purtroppo si va a colpire quelli che sono sempre i nuclei familiari. Ma tornando al discorso dei pensionati di 1000 euro al mese, bisogna tener conto come non solo questi pensionati hanno un importante ruolo sociale e permettono ai genitori, ai figli, dei loro figli addirittura arrivare a fine mese, però dobbiamo anche tener conto che questi pensionati in domani dovranno anche pagarsi le cure mediche, dovranno anche far fronte a quelli che sono dei reali fabbisogni che dovranno inevitabilmente andare incontro, e sappiamo che purtroppo tempo fa guardavo una trasmissione dove addirittura si diceva che quasi 40% dei pensionati hanno venduto la nuda proprietà perché con le pensioni non ce la fanno più a mantenere una vita dignitosa o dare una mano ai figli in difficoltà. Altro dato che vorrei commentare con te è quello del bilancio complessivo, cioè entrate e uscite dell'INPS, 392 miliardi di uscite, tre quarti sono per le pensioni, 382 miliardi di entrate, quindi già c'è un passivo di 10 miliardi che in qualche modo va coperto. Poco più di metà delle entrate sono i contributi dei datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi, però va fatto un ragionamento, se si lavora sempre meno perché c'è meno lavoro, si pagano meno contributi, quindi il rischio è che a medio o lungo termine il sistema non regga. Ma sarà sicuramente così, perché purtroppo sappiamo benissimo che il sistema oggi, come è stato strutturato, non potrà stare in piedi, anche perché abbiamo due fenomeni. Da una parte c'è un'età che si allunga e che certamente non potrà risolvere obbligando i lavoratori a lavorare sempre di più in una speranza che questi quasi veramente non riescono più ad arrivare in pensione, perché oggi per andare in pensione si sta legando l'età all'aspettativa della vita. Dall'altra ci sono i giovani che sappiamo benissimo che praticamente non trovano più lavoro, o quello che trovano certamente non hanno più quelle garanzie da poter pagarsi i contributi per una pensione. Oggi c'è veramente il coraggio di dire che i giovani non avranno una pensione, ma se non avranno una pensione vuol dire che non pagano i contributi e vuol dire che chi è in pensione non potrà più beneficiare del proprio assegno, o chi vorrà andare in pensione si vedrà sempre più a rischio. Oggi sappiamo che rispetto a qualche anno fa ci sono delle forme di previdenza integrativa che hanno subito il PFR, che costringono il lavoratore a una trattenuta mensile sulla brutta paga. Ci sono ogni genere, sorta e colore di fondi privati che cercheranno l'indomani di andare ad integrare quello che sarà l'assegno visto. Però tornando al bilancio sociale dell'INPS, certamente è un bilancio che innanzitutto ha dovuto anche sostenere quello che è l'assorbimento dei fondi statali come l'INPDAP, che avevano dei grossi buchi, e dall'altro però ci sarebbe veramente interessante cominciare a tagliare quelli che sono gli stipendi di questi manager, perché l'Italia è l'unico paese che paga questi manager a fior di milioni di euro anche se hanno dei bilanci negativi, quindi sembrerebbe quasi che come amministratori tutto fossero tranne che quelli, e quindi certamente un ragionamento che andrebbe veramente meriterebbe veramente di essere sviscerato e analizzato e sinceramente anche rivisto su quelle che sono alcune voci di uscita. Ci hanno provato anche in Svizzera con un referendum a limitare i mega stipendi dei manager, non ci sono riusciti, figuriamoci in Italia se nemmeno potrebbe essere proposto. Magari di pensioni integrative parleremo in un'altra occasione, intanto ringraziamo l'Adico, il presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.